Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Figli in vacanza, dai nonni ai campi estivi o con noi, diverse formule ma un obiettivo comune: stare bene. Se le vacanze le avete già organizzate, chiamateci per darci qualche idea. Se siete lì ancora un po' indecisi, ve la suggeriamo noi. Intanto può esserci utile pensare alla nostra vacanza, alle vacanze di quando eravamo piccole, quelle che ricordiamo con piacevole nostalgia, quelle in cui a distanza di tempo abbiamo capito che era capitato qualcosa di importante, qualcosa che ci ha fatto bene ed è rimasto nel nostro cuore. Il nostro numero verde è già attivo, 800 24 00 24, e qui è tornato a trovarci Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore all'Università di Milano. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Il nostro esperto di relazioni interpersonali ma anche familiari, e a proposito di famiglia, lui ha da sistemare ben 4 figli, non è uno scherzetto da poco. Ho appena finito di sistemarli, perché in realtà io sono reduce proprio da una vacanza di 8 giorni in montagna trascorsa con tutta la mia famiglia, la tribù, e devo dire che ho imparato molte cose in questi 8 giorni e magari ve le racconto durante la trasmissione. Volentieri, e se volete saperle chiamateci subito oppure scriveteci al 349-238-6666. Intanto io voglio salutare e ringraziare il dottor Antonino Reale, che è pediatra responsabile del pronto soccorso del Bambino Gesù di Roma, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dottore, la vacanza è sempre un tocca sana, a qualunque età. Assolutamente. Ecco, ma per i bambini lo è in modo speciale. Sì, per i bambini lo è in modo speciale per 2 motivi. Il primo, perché naturalmente è l'occasione di stare in posti con l'aria più pulita, se stanno nelle città, montagna, mare, quello che sia, campagna. E l'altra cosa è un'occasione d'oro per stare un po' più con i genitori, soprattutto con i papà. I papà normalmente sono abbastanza assenti per lavoro, impegni vari, ancora più dalle mamme, che ormai lavorano anche loro. E allora è un'occasione per ritrovare della così confidenza maggiore tra genitori e figli. Dottore, basta cambiare aria, mare, montagna, laghi, o lei suggerisce anche destinazioni particolari in base all'età e anche alle caratteristiche individuali del bambino? Sì, certamente, bisogna tenere presente diversi fattori. Innanzitutto lo stato di salute del bambino. È ovvio che dei bambini con problematiche croniche, di patologie più importanti, avranno qualche piccola limitazione nei viaggi più impegnativi in paesi, diciamo, africani piuttosto del Sud America e così via. E la mare o montagna o campagna, che devo dire, l'aria pulita è la cosa più importante. Non bisogna legare i genitori per forza a fare la montagna, per forza a fare il mare. È ovvio che potendo fare entrambe le cose la cosa è migliore, perché sono 2 occasioni differenti. La montagna sicuramente il bambino riposa meglio, è più fresco, ha orari più tranquilli, viene responsabilizzato nelle gite, nei percorsi di montagna, il contatto con la natura, e questo è un aspetto. Il mare è un aspetto più ludico, quindi il bambino si espone al sole, gioca con gli altri bambini, infrange un pochino anche le regole, che d'estate è giusto farlo, facendo più tardi la sera per esempio. Senta, vogliamo parlare anche di durata. Quanti giorni deve durare una vacanza per essere benefica dal punto di vista della salute? Beh, possibilmente potendolo fare naturalmente, certo, perché ormai con le crisi economiche si è tutto molto ridotto, io consiglierei di fare 3 settimane almeno, non di meno di 3 settimane. Dottor Reale, la vacanza può essere anche una buona occasione per impostare o ripristinare delle buone abitudini. A tavola, penso alla dieta, all'attività fisica, ma anche al riposo. Abbiamo detto prima, è giusto anche secondo me ogni tanto, come si dice a Roma, sgarrare, cioè, concedersi un gelato in più piuttosto che una pizza in più la sera, però è un'occasione anche per i genitori, per i bambini di crescere insieme, perché anche i genitori devono crescere insieme ai figli che hanno epoche, età differente, una cosa è un lattante, una cosa è un adolescente, quindi anche noi genitori, io ho figli grandi, anche i genitori si cresciamo insieme d'estate con i nostri figli, quindi non perdiamo questa occasione d'oro. L'alimentazione ovviamente sarà un'alimentazione più estiva, quindi ricca più di liquidi, ricca di frutta, di verdura, con meno grassi, che vuol dire salumi, vuol dire grassi animali in generale, e questo fa parte ovviamente della cultura anche nostra mediterranea, di avere delle diete a base di pochi grassi, ormai copiata da tutti, particolarmente d'estate, quando il movimento anche per la temperatura che è molto maggiore, quindi c'è meno dispendio energetico per produrre termoregolazione. Consiglio ai genitori in partenza: che cosa non si deve dimenticare di mettere in valigia? Documenti, farmaci, qualche raccomandazione? Sì, assolutamente, ricordo sempre il problema dei bambini con patologie, quindi bambini che hanno patologie particolari sono un mondo a sé, i genitori devono conoscere i farmaci di cui possono avere bisogno, se si recano in zone dove possono non trovare. Vi ricordo che adesso con gli aerei c'è anche delle limitazioni nel bagaglio a mano, i farmaci devono essere nel trolley, nella borsa appresso, e non possono superare i 100 ml, altrimenti serve una prescrizione del medico per portarli con sé. E un altro consiglio che do è di non riempirsi la valigia di farmaci, cosa che fanno tutti, quindi si portano appresso tutti, magari per andare in un centro dove ci sono 18 farmacie, sì. Poi al ritorno scadono, si butta tutti, quindi smaltimento di rifiuti speciali come sono i farmaci. Bisogna avere poche cose, i farmaci dall'emergenza che ogni buon genitore conosce, quindi un antipiretico, dei sali reidratanti, un antistaminico per il prurito, per punture di zanzare e quant'altro, un farmaco antivomito se il bambino soffre di mal d'auto, insomma, poche cose, quelle essenziali, non riempiamoci, almeno uno deve fare la traversata del deserto, sì, in dromedario, normalmente non si fa in età pediatrica, per cui portiamoci veramente l'essenziale appresso, perché sennò inquiniamo e buttiamo soldi. E tanta voglia di stare insieme, grazie. Assolutamente, è la cosa più importante, grazie a voi, buon lavoro. Grazie, noi abbiamo Giorgio, ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Giorgio, buongiorno. A proposito di quello che diceva il dottore, professore, non so, insomma, noi ci portiamo una cassetta piena zeppa di farmaci, dall'aspirina al polaramin e via dicendo. Viaggiate con la farmacia al seguito? Viaggiamo con una farmacia ambulante, perché siamo tanti, abbiamo 4 figli, 3 nostri e uno adottato. 2 cani, uno nostro preso e uno adottato. Siamo in crisi lavorativa, perché la mia azienda ha subito un duro colpo, e quindi ho dovuto ridurre gli orari ai miei dipendenti in accordo con loro, e quindi la vacanza non è che si poteva fare chissà cosa. Se prima eravamo benestanti, adesso ce la caviamo. E abbiamo deciso di noleggiarci un camper enorme e andarcene in Grecia via terra, perché col traghetto costa un patrimonio, certo. E quindi andiamo con questa miriade di ragazzini, mia moglie e io, i cani. Ma bello! Riusciremo a raggiungere la meta. Giorgio, non è che c'è un posticino per me, Alberto? Ma veniamo. Guarda, voi potete venire, siete molto simpatici, vi seguo sempre. Siete delle persone fantastiche, quindi se mi intrattenete così come mi intrattenete per radio, vi porto. Va bene, allora Giorgio ci conto, almeno se non ci porti una cartolina. Vi metto tipo radio, vi metto. Grazie Giorgio, buone vacanze. Alberto, belle vacanze. Questo direi che è proprio direi che Giorgio proprio ci racconta cosa dovrebbe succedere in vacanza, cioè dovrebbero succedere cose che ti portano fuori dalla routine, dalla quotidianità, che sono al tempo stesso molto sfidanti. La vacanza come un percorso, noi ce lo immaginiamo in partenza col suo camper e quest'universo di familiari e di animali al seguito, e effettivamente questo viaggio, ogni tappa sarà un'avventura e probabilmente un ricordo. Te l'ha sentito questo papà? Era molto tranquillo, mi sembrava veramente un papà avventuroso, un esploratore. Chissà se è avventuroso, esploratore. Il papà che abbiamo in linea è il nostro amico Giacomo Porretti, che io ormai ho soprannominato il bello del trio. Ciao Giacomo. Ciao, buongiorno, grazie. Senti, ma sai che quando io lo dico io sono amica del bello del trio, tutti ti riconoscono, com'è? Ma non ridere, la verità. Mamma mia, che fortuna. Perché la gente ha gusto, sa riconoscere dove, certo, c'è la bellezza. Hai ragione. Senti Giacomo, tu sei pronto per partire o manca ancora un po'? Beh, in realtà sono già un po' partito, no? Un po' torno a Milano, un po' parto, però insomma ancora una decina di giorni poi parto definitivamente, insomma. Noi abbiamo chiesto ai nostri amici da casa di raccontarci un po' le vacanze di quando erano piccoli, la vacanza quella che è rimasta nel cuore, quella che è indimenticabile, nel bene, ecco, nel bene o direi. Nel male, la mia nel male, perché io ce l'ho proprio sul cuore, che pesa come un macigno. La prima volta che io ho visto il mare avevo 4 anni, i miei genitori, non perché fossero degli aguzzini, ma perché come si diceva allora negli anni 60, ero un bambino linfatico, hanno dovuto mandarmi al mare e mi hanno mandato 2 mesi una di queste colonie che erano molto in uso negli anni 60. Eh sì. Per cui sono stato per 2 mesi al mare in Liguria, però soprattutto ero lontano dai genitori, per cui me lo ricordo come una specie di inferno. Una vacanza col magone. Una vacanza col magone, no? E tutti i bambini, che quasi tutti erano di Milano, della provincia, cantavano due volte al giorno una canzoncina strappalacrime: Milano, Milano, Milano arriveremo, la mamma ritroveremo, e poi anche il papà, abbasso la colonia e viva la libertà. Ma Giacomo, mi stai quasi commuovendo. È vero, io vedevo quando andavo al mare in Liguria i bambini delle colonie e mia mamma mi racconta sempre che io le stringevo la mano fortissima perché avevo paura quasi che lei mi lasciasse lì. Poi, non mi vedevi che allungavo la manina? Eravamo insieme. E poi invece ci sono dei bambini, delle persone che ricordano invece le vacanze in colonia come delle occasioni magnifiche. Senti, non mandi in colonia il tuo bambino, dove lo porti? Allora, il mio bambino lo porterò un po' al mare e un po' in montagna. Adesso in questi giorni siamo in montagna e il mio bimbo, cioè meno di 5 anni, ha fatto la prima camminata da solo, 1 ora e mezza senza metterlo sulle spalle, che ti assicuro è un passo avanti gigantesco. E l'altro giorno abbiamo assistito ad una cosa incredibile, un'avventura. Eravamo a quasi 2000 metri, c'erano delle marmottine e sono stati attaccati da 2 volpi. Per cui il mio bimbo gli sembrava di vedere un film, non gli sembrava vero, insomma. Era una cosa incredibile. E lui come ha reagito? E lui un po' era spaventato, un po' affascinato, perché poi comunque, sai, lui vede magari i cartoni animati, gli animali per lui sono tutti buoni. In quel caso lì è stato un po' crudele, come, certo, come a volte la natura lo è, per cui insomma abbiamo dovuto spiegargli che anche le volpi hanno fame, che si devono difendere, insomma, ma non lo so, avremo qualche ripercussione tra qualche giorno, credo. Alberto, tu come l'avresti giustificato questo assalto? Ma direi che dire sempre la verità è la cosa migliore, e poi credo che sia proprio questa una delle occasioni che ci offrono le vacanze, cioè nel momento in cui entriamo in un altro luogo, in un'altra in un altro scenario, in un altro paesaggio, in un'altra possibilità, noi osserviamo cose che nella quotidianità della città non potremmo mai sapere, vedere, conoscere. Quindi questo è proprio un modo per far conoscere il mondo ai nostri figli. Giacomo, grazie, buone vacanze. Grazie, buone vacanze anche a voi. Ciao, grazie, a prestissimo. Ma c'è chi in vacanza va da solo, Alberto. Sta attenta al sole, mettiti la protezione totale, te l'ho messa nella borsa. Spalmatela bene su tutto il corpo e non dimenticarti le orecchie, che poi ti diventano rosse come pomodori. Ti voglio bene. Io te ne voglio. Va bene, adesso salgo, Sì, salgo. Se fa freddo mettiti il maglione e casomai anche la giacca, eh. E avvolgiti la sciarpa intorno al collo, così non entra il freddo da sopra. Va bene, me l'hai già spiegato. Copriti bene la gola e respira dal naso. Se ci sono le zanzare, ti ho messo lo spray. Mettitelo bene dappertutto, perché è pericoloso. Ti viene un prurito terribile. Ho capito. Le zanzare sì, ti lasciano, certo, delle bolle giganti, ma non ti devi grattare. Ah, un'altra cosa. Se fa troppo caldo, usa un ventaglio, tac, tac, tac, tac. Lo apri bene come una foglia e ti sventoli così. Foglia. Non avvicinarti all'acqua, d'accordo, perché non sai nuotare, sì, non entrare in un lago, né in un ruscello, va né bene, in una pozzanghera. Va bene. Hai capito bene? Adesso se non riesci altro a dormire con tale pecore. Mamma! Beh, no. Un po' ci riconosciamo. Ma direi che questo però è proprio uno stile di separazione per cui la partenza di un figlio sembra una delle peggiori tragedie per un genitore, e quello che viene comunicato fondamentalmente è un mondo di pericoli che potrebbe trovarti là dove stai per arrivare, conseguentemente un genitore si erge a ruolo di protettore. Direi che queste sono poi separazioni molto complesse, perché un figlio lascia il genitore e non sa veramente da una parte quello che lascia a casa, è chiaro che gli stiamo raccontando che siamo molto preoccupati per quello che gli deve succedere e al contempo gli diamo prefigurazioni di quello che lo aspetta, che sono tutto tranne che invitanti. Ripensavo anche all'esperienza di Giacomo, ci diceva questa vacanza che è stata una sorta di macigno sul cuore. C'erano molti motivi per cui un tempo molti bambini venivano mandati per lunghi periodi in luoghi come le colonie estive ed erano legati alle condizioni di salute, alle condizioni organiche, ma 4 anni per 2 mesi di separazione chiaramente non vedevano poi i bisogni invece emotivi profondi del bambino. A 4 anni non si è così pronti per una separazione da una persona che ti dà fiducia e sicurezza, quindi se uno proprio lo deve fare deve preparare molto bene il bambino e soprattutto cercare che il bambino parta con una persona che sia per lui una persona nota e conosciuta di riferimento. Allora, se anche voi volete raccontarci le vostre vacanze di quando eravate piccoli, come ha fatto Giacomo, ricordi positivi, ricordi negativi, un po' di magone, così l'ansia del distacco. Giacomo ci raccontava di questa canzoncina, no? Che veniva cantata ogni giorno, che strappava un po' il cuore. Noi siamo qua a 800 24 00 24, quindi Alberto, bisogna in qualche modo abituare i bambini, ma a partire da che età secondo te possiamo fargli spiccare il volo? Allora, sono in preadolescenza, sono proprio pronti, hanno spesso l'esigenza proprio di separarsi da mamma e papà. Fino ai 6 anni è bene che partano invece con persone che fanno parte del loro cerchio familiare, delle quali ci fidiamo noi, ma soprattutto si fidano loro. Tra i 7 e i 10 anni è possibile mandarli in situazioni dove ci sono educatori competenti e dove possibilmente loro arrivano nel luogo di vacanza magari con un amico o un'amica con cui hanno familiarità durante la loro quotidianità, l'anno scolastico, quindi compagni di scuola. Ci sono proprio delle esperienze come le vacanze scout, che tra le altre cose racconteremo anche nella seconda parte della trasmissione, o i campi WWF, o i campi sportivi, dove frequentemente i bambini hanno la possibilità di giocare, coltivare una passione, stare fisicamente attivi e riappropriarsi di abitudini e stili di vita che tra le altre cose fanno molto molto bene alla salute. Posso dirti che in questi giorni di vacanza io ho visto un'epidemia di un comportamento che vorrei vedere estinguere, quindi lancio proprio un appello a mamma e papà: lasciate a casa console di videogiochi, scatolette elettroniche, perché io sono rimasto senza parole nel vedere, per esempio, eravamo proprio in un posto di vacanza magnifico, a tavola ogni sera era una festa, c'erano proprio tantissime cose, cibi nuovi da assaggiare, bambini che erano invece tutti concentrati sul loro piccolo schermo e quindi intorno alla tavola genitori un po' persi che parlavano fra di loro oppure si godevano la buona tavola e bambini che non assaggiavano quasi niente, non parlavano praticamente di nulla e continuavano a giocare davvero per quarti d'ora al videogioco che hanno in mano tutto l'anno quando sono a casa. Una cosa del genere, veramente non portatela con voi in vacanza. Allora, in vacanza senza videogiochi, questo è l'invito, la provocazione forse per alcuni di Alberto Pellai. Vogliamo parlarne insieme? Magda, per l'amor di Dio, fermati. Ma scusa Fulvio, ma che cosa ho fatto? No, non si dispongono i bagagli dentro una macchina così. Tesoro. Quando compi queste operazioni devi sempre tener presente di dover comporre un mosaico. Ogni cosa deve combaciare con l'altra. Deve essere come un puzzle, né più e né meno. Anton Giulio, vai al posto d'Anton Luca e te Anton Luca vai al posto d'Anton Giulio. Questo è già un assestamento più accettabile. Senti tesoro, allora vediamo un po'. Tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Sì. Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Sì. Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa? Sì. Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Sì. Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino. Sì. Perfetto. Si parte, stiamo preparando le vacanze per i nostri figli, ma oggi vogliamo anche pensare alle vacanze che abbiamo vissuto noi da bambini per trovare dei punti in comune con quelle che stiamo organizzando da genitori oppure delle differenze. 800 24 00 24 e poi in vacanza, come suggeriva Alberto, con i videogiochi o senza. Alberto lancia questa idea: lasciate a casa i videogiochi, bambini che passano i pranzi e le cene a smanettare manettare, come si dice, su queste piccole computerini, e tagliano veramente i fili con i genitori. Forse anche loro hanno bisogno, no? O di una bolla in cui ritirarsi. Chiara da Trento, buongiorno. Buongiorno. Niente, io sentivo cosa stavate parlando e mi è venuta in mente un po' la mia esperienza e un po' quella che sto provando di ripetere col mio piccolo, nel senso che io ho fatto le vacanze da quando ero piccola tutti gli anni, un anno, un mese, in montagna, in tenda, isolati da tutto e da tutti, con i miei e con i bimbi, per giocare in giro, zingari tutto il giorno. Da lì sono passata all'esperienza scout, che era un'altra bellissima esperienza, però sempre un po' fuori dal mondo, immersi nella natura. Sto provando a fare lo stesso con mio piccolino, che ha 2 anni e mezzo. Premetto che noi non abbiamo nemmeno la TV in casa, questa già forse è una scelta un po' di vita. Sì. Però sono rimasta sconcertata nel vedere bimbi in vacanza, in camper, in posti spettacolari, con le cuffiette in testa e il CD attaccato e i genitori in spiaggia. E questo per me è veramente stata sconvolgente, mentre il mio è stile zingarello che va in giro e scorazza dappertutto e non vede l'ora di partire. Insomma, certo. Quando partirete, Chiara? Siamo già partiti, abbiamo fatto 2 settimane, purtroppo le 3 erano impossibili. Adesso certo. 2 col camper, adesso ne faremo una in tenda ad agosto, se riusciamo io e lui, senza il papà. Buone vacanze, Chiara! Grazie mille, grazie. Buona giornata a tutti. E andiamo a Fabio, che ci chiama da Modena, 800 24 00 24. Suggerimenti, spunti, ricordi? Fabio, buongiorno. Buongiorno a voi. Io volevo portare la mia esperienza decennale di organizzatore di camp estivi per bambini, sì, sportivi. E volevo dire che la maggior parte, diciamo, di quello che voi avete detto mi rivedo, mi rispecchio, e soprattutto volevo portare a conoscenza che la maggior parte delle volte è il genitore che soffre il distacco col bambino e non il contrario. I bambini partecipano molto volentieri ai camp estivi, naturalmente per fasce d'età non sotto i 7 anni, certo. Sono concordo tantissimo. E soprattutto i genitori sono quelli che si fanno maggiormente scrupoli a mandarli, ovvero il mio figlio non mangerà, io guardi ho portato oltre 6.000 bambini in ferie e hanno sempre mangiato tutto quello che c'era, senza nessun tipo di problema, mentre casomai a casa fanno problemi. Anche per queste tipologie di esperienza fanno sì che i ragazzi imparino le regole di gruppo, l'induzione all'autogestione, conoscano nuovi amici, insomma. E questo, la maggior parte delle volte, sono più i genitori la paura che rispetto a quella dei bambini. Un consiglio quindi ai genitori, da lei che è un addetto ai lavori? Genitori, portate i bambini e state a casa. Quando è telefonato 2 volte a settimana, sentire se i bambini stanno bene, non c'è problema. Anche perché la maggior parte delle volte i bambini, dopo 1 minuto di telefonata, mamma viene, devo andare a giocare. Grazie a Fabio da Modena, e io voglio dare il benvenuto a Mariano Iadanza, che è commissario internazionale della Federazione Italiana Scautismo. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, gli scout, una vacanza che è un po' preparata nel corso dell'anno, lupetti, esploratori. A noi interessano al momento queste 2 formule perché ci occupiamo dei bambini che vanno dagli 8 ai 15 anni, ecco, poi i ragazzini crescono, ci sono il desiderio magari di fare nuove esperienze, iniziano a subentrare le vacanze con gli amici o delle vacanze studio per imparare una lingua. Voi però li preparate durante tutto l'anno, vero? Sì, bisogna dire che l'esperienza estiva è chiaramente il tassello finale di una preparazione educativa che dura nel corso dell'intero anno e che pertanto noi usiamo spesso dire, no, che è come una pallina di flipper: durante tutto l'anno noi tiriamo indietro la molla e poi la lasciamo, no, per far andare la pallina nel flipper appunto durante il campo estivo, che è l'esperienza massima che i ragazzi vivono, sia insomma di autonomia sia di concretizzazione degli obiettivi educativi che ci siamo posti con loro durante l'anno e che tentiamo appunto di realizzare in occasione del soggiorno estivo. Dunque, questo periodo, diciamo, normalmente dura tra 7 e 8 giorni per i bambini in età lupetti, quindi parliamo di ragazzi e ragazze tra gli 8 e gli 11 anni, e dura invece 10, 12, anche 15 giorni per i ragazzi più grandi tra i 12 e i 15, 16 anni, perché gli obiettivi educativi sono un po' diversi, anche la pedagogia scout, diciamo, parte da presupposti un po' diversi per le 2 fasce d'età, per quanto il metodo sia unico. I bambini, insomma i ragazzi e le ragazze tra gli 8 e gli 11 anni svolgono normalmente un'attività estiva basata sul gioco, usiamo dire normalmente negli scout che si fa tutto col gioco ma niente per gioco, quindi vivono insomma in un'ambientazione fantastica che normalmente si ispira al libro della giungla di Rudyard Kipling, del premio Nobel Kipling, e svolgono attività insomma quotidiane basate sullo sviluppo dell'abilità manuale, lo sviluppo fisico, il carattere, il senso civico. Al contrario invece i ragazzi insomma un po' più grandi normalmente svolgono attività diciamo così un po' più avventurose all'aria aperta, quindi si costruiscono proprio il loro tavolo, insomma il loro spazio di vita, montano la loro tenda, cucinano chiaramente sul fuoco, preparano insomma il portale, l'alzabandiera e vivono un'esperienza, no, come diceva prima l'amica Chiara, un po' più a contatto con la natura e chiaramente un po' più isolati da quelle che sono normalmente le attività che svolgono nel resto dell'anno, diciamo più orientate alla tecnologia o magari anche effettivamente al videogioco, no, quello di cui abbiamo parlato in trasmissione prima. Io ho un figlio lupetto e devo dire che l'ho visto partire e tornare sempre molto molto soddisfatto, e devo dire come genitore che quello che gli permette di sperimentare la vacanza con gli scout, effettivamente io non sarei in grado in nessun modo di proporlo a mio figlio, per cui la trovo un'esperienza davvero di arricchimento. Allora ringraziamo Marino Iadanza per essere stato con noi. Quando partirà Marino? Mariano? Io personalmente parto il 23 luglio per un campo mondiale in Svezia con altri 38.000 scout. Però... e insomma torno poi l'8 agosto. E il Jamboree? È il Jamboree, sì, esatto, quindi sono parte del contingente italiano e poi invece col mio gruppo locale insomma partirò a metà agosto, destinazione Nord Italia e Berlino. Lupetti, esploratori, che no, io sono educatore della fascia più alta, quindi rover, quelli... diciamo overage per quelli grandi, no? Quelli grandi. Sì, esatto. Grazie, buone vacanze anche a lei. A lei, a voi, buone vacanze. Roberta dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io voglio dare la mia testimonianza perché ho due figlie di 9 e 11 anni, sì? Che hanno appena frequentato dei corsi estivi divisi per fasce d'età, perché uno nelle medie e l'altro nelle elementari, e in questa esperienza hanno vissuto una sorta di condivisione con gli altri compagni. Ci sono anche ragazzini e bambini anche problematici, nel senso che sono anche bambini in affido, quindi anche un'esperienza non facile, non perfetta, non come dire tutto in modo preciso, eppure in questo contesto sono riusciti a avere questa condivisione, sono ritornati, la cosa che mi ha fatto molto più piacere, molto rilassati, cresciuti. Arrivano da un carico scolastico sempre molto pesante, quando ritornano da queste esperienze sono veramente più tranquilli e anche guidati dalla voglia di collaborare anche in casa, oltre al fatto che abbiamo riscoperto anche noi come coppia uno spazio più intimo, più tranquillo. Valentino, sante parole, anche i genitori vanno in vacanza se sì. I bambini sono sistemati, tranquilli, in un posto sicuro dove si possono divertire e crescere. Grazie Valentina. Ecco, scusi, sì? Guardi, solo una piccola, rubo un minuto. Anche Nicola due. Voleva dire una cosa sola perché è qui vicino a me. Ma certo, Nicola. Lo consiglio a tutti i bambini perché è un'esperienza che fa diventare capaci di stare senza i genitori e responsabili. Grazie Nicola, sei stato proprio bravo a intervenire in trasmissione, sono onorata, grazie. Un ascoltatore speciale, grazie Valentina anche. Andiamo a salutare Valentina Nargino che è qua con noi per parlarci del WWF. Valentina, buongiorno a tutti. Campi avventura, oasi, vacanze verdi blu, tante proposte diverse per far vivere ai nostri ragazzi una vacanza speciale. Ma come aiutate i genitori a scegliere la vacanza che calza proprio a pennello sul bambino? Sì, noi quest'anno abbiamo veramente tantissime proposte per tutte le necessità. Abbiamo un bel portale www.nature.it dove raccogliamo attraverso un motore di ricerca tutte le proposte per i ragazzi. Come aiutiamo a sceglierla? Attraverso appunto diverse tipologie di vacanze. Abbiamo le vacanze nelle fattorie del Panda, per esempio, che sono delle fattorie, appunto degli agriturismi all'interno di aree protette in tutta Italia, e in questo caso, come diceva Anna, l'obiettivo è proprio quello di vivere la campagna, vivere la natura nel miglior modo possibile, riscoprendo anche cibi genuini, cibo biologico soprattutto, vivere la campagna e le tradizioni, quindi scoprire anche il territorio oltre all'azienda agricola nella quale si è ospiti. Poi sì, abbiamo anche le vacanze un po' più sportive, come hai detto tu, le vacanze verde e blu, sono vacanze che si svolgono nell'arcipelago toscano, in barca a vela, quindi proprio per imparare ad essere dei giovani skipper, ma anche sul lago di Como. Abbiamo una vacanza sportiva perché appunto i ragazzi avranno la possibilità di fare prove di immersione, seguiti ovviamente da degli istruttori, certo. E poi abbiamo le nostre classiche, i nostri classici campi avventura, che sono invece dei campi per tre fasce di età, dai 7 agli 11, dai 12 ai 14 e poi fino ai 17 anni, e sono appunto dei campi organizzati in modo da stimolare un po' di più sia la consapevolezza e il rispetto nei confronti della natura, sia lo spirito di collaborazione a cui si accennava prima, quindi i ragazzi vengono proprio responsabilizzati nella gestione delle strutture, nel cucinare insieme e nel vivere in maniera bella e partecipativa la giornata. Io, guarda, se fossi ragazzino mi sceglierei la vacanza verde e blu. Adesso non so, Alberto, gli faccio pensare anche a lui che cosa, magari a te, come ti vedo? Tu sei più da fattoria, Alberto. Beh, mi piacerebbe molto. Grazie a Valentina Nargino per essere stata con noi. Lo sai? Ecco quello che dovremmo fare. Che cosa? Tornare al lago, tutta la famiglia in vacanza, come facevamo una volta. Chiamo Mike Romano e vedo se la casa è libera per il Labor Day. Oh, caro, è un'idea fantastica, ma i ragazzi sono iscritti a corsi e campi estivi. È quello che dovremmo fare, Kate. Noi sappiamo che la vita passa in un istante. Torniamo al nostro lago per l'ultima volta. Ok, Charlie, sei in teleconferenza con noi e Lorraine. Ciao, Charlie. Ciao a tutti, ragazzi. Sì, e sono Lorraine, ci sono anch'io. È una sorpresa. Abbiamo affittato la casa sul lago Winnetka. Winnetka è il mio secondo nome. Il lago è mio. Ci andremo in vacanza per il Labor Day, come ai vecchi tempi. Eh? Io vorrei stare con i miei amici d'estate. Perché io e Nigel abbiamo i nomi di un posto? Bella domanda. Sì, a me piace il lago, vengo. Io cancellerò un paio di ingaggi. Bravo! Ok, anche noi. Alla grande! Veniamo anche noi, papà. Dai, ragazzi, ci portiamo le tavole e batteremo tutti. Ok, veniamo. D'accordo, rimane solo Lorraine. Avanti! Dai, vedrai. Va bene, ragazzi, ecco l'accordo. Io verrò al lago se papà la smetterà di darmi il tormento perché non vado a New York. Andata, tutti e 12 al lago! Tutti insieme appassionatamente, dal ritorno di una scatenata dozzina, vacanze tutti insieme. I bambini possono andare ai campi estivi, ma poi tornano, è un pezzettino di vacanza. Sappiamo che insomma, è un periodo un po' difficile, le vacanze diventano sempre più brevi, ma qualche giorno tutti insieme. Sì, io direi che è un diritto e dovere per ogni famiglia trascorrere del tempo insieme in una situazione speciale di vacanza, in base al proprio budget, ma i valori proprio di una relazione in uno spazio che è altro rispetto a quello della quotidianità, e con l'unico obiettivo di stare bene, cioè di inseguire il piacere e non il dovere, a me sembra sacrosanto. Ce lo meritiamo. E ricordatevi che quando invecchieremo, proprio il tempo delle vacanze trascorso con le persone a cui abbiamo voluto bene costituirà quella memoria emotiva che ci darà il senso e il significato di ciò che siamo stati e del perché abbiamo vissuto. Paolo da Vercelli, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, Paolo. L'ultima cosa che ha detto Alberto credo che sia esattamente, cioè che fotografi esattamente la mia concezione delle vacanze, cioè come una costruzione di ricordi, cioè la costruzione di quelle cose che poi ti servono per andare avanti quando cresci. Certo. La cosa che volevo raccontare è una cosa che ascoltandovi mi ha fatto sorridere l'intermezzo di raccomandazioni e apprensioni del genitore nei confronti del figlio. Ecco, perché a me è successo esattamente il contrario. io sono un genitore separato e due anni fa, quando i miei figli sono partiti con la madre per una vacanza, il mio grande, che attualmente ha 12 anni, cioè, mi ha fatto lui queste raccomandazioni. Veramente? Cioè, si è raccomandato che non andasse a giocare a tennis nelle ore troppo calde, si è raccomandato che non face... sì, vabbè, guarda, esci con gli amici, vai a suonare, però cioè, non tornare troppo tardi, non fare... Cioè, io lo guardavo e dicevo, no, aspetta un attimo, dunque... Non sono passati tantissimi anni da quando me le faceva mia madre, adesso mi ritrovo in questo limbo in cui adesso me le fa mio figlio. No, certo che i ragazzini crescono rapidamente e poi a volte i ruoli si invertono. Papà fa il bravo. Papà fa il bravo, Paolo faccia il bravo, glielo dico anch'io. Io gliela butto lì. Questa cosa qua del papà fa il bravo, infatti, è diventata poi veramente la barzelletta delle cene fra amici. Grazie a Paolo, che deve fare il bravo, continuerà a fare il bravo, ma noi vogliamo farci suggerire da Federica Brunini, che è in linea con noi, giornalista e autrice di autrice di Travel Therapy, Morellini Editore, qualche meta per fare vacanza tutti insieme. Facciamo due fasce d'età, dagli 8 ai 12 anni e dai 12 ai 16. I bambini più piccoli, naturalmente, vogliamo pensare anche loro, insomma, tre fasce d'età. Assolutamente sì, e innanzitutto io vorrei dire che sfatare questo mito che portare i bambini in viaggio sia difficile, non è assolutamente così. Io anzi trovo che i bambini e i ragazzini siano i viaggiatori perfetti, proprio perché sono curiosi per natura, e non c'è niente di meglio che viaggiare con un curioso per divertirsi e godere al meglio dell'esperienza del viaggio e della vacanza, ovviamente con alcuni accorgimenti di buon senso, per certo. Cui evitare quelle situazioni che possono essere igienicamente più pericolose, questo va di pari passo con l'età del bambino. Più sono piccoli, meno dobbiamo portarli a rischio di appunto allergie piuttosto che germi e batteri che possono compromettere la loro salute, e scegliere anche viaggi che non siano poi così lontani, e parlo ovviamente per i bambini più piccoli, perché metterli su un aereo e farli volare 24 ore o 12 ore o sì, soltanto mi sembra, anche 6 ore può essere molto complicato sia per i genitori ma soprattutto per il bambino. Non dimentichiamo che i più piccoli poi magari soffrono un mal d'orecchio per la compressione eccetera del velivolo, ma non potendolo dire piangono e disturbano tutto l'aereo, e poi arriviamo a questi paradossi per cui non si vogliono più far volare i bambini sotto i 4 anni. Senti, Fede, allora tre mete rapide, così ci fai un po' sognare, magari sì, se non possiamo farle quest'anno le mettiamo nel cassetto per il prossimo. Sicuramente mete di mare consiglierei, sicuramente l'Italia per dei bambini piccoli, l'Italia magari della Puglia per esempio, oppure della Sardegna come abbiamo detto tante volte. Per quelli un po' più grandi invece le Baleari, intendo Minorca in particolare, perché magari si può fare uno stopover a Valencia e quindi abbinare anche una visita alla nuova città della scienza e al museo oceanografico più bello del mondo, quindi come dire riempirgli il tempo anche con queste cose di curiosità. E poi invece direi magari le Canarie, cioè Lanzarote e Fuerteventura per i più grandini, perché lì si possono fare delle avventure insieme, che può essere dal windsurf al kitesurf alla vela, quindi si possono praticare quelle attività con i ragazzini che sicuramente rendono la vacanza un'esperienza indimenticabile e fanno quei ricordi che poi ci fanno crescere bene. Di cui parlava Alberto. Grazie a Federica Brunini, un bacio. Grazie. Ciao a voi, Fede. Buon viaggio, a presto. Buon viaggio. E noi abbiamo in linea il dottor Andrea Scaramuzza. Buongiorno dottor Scaramuzza, bentornato, responsabile del servizio di diabetologia clinica pediatrica all'Università di Milano, ospedale Luigi Sacco. Dottor Scaramuzza. Buongiorno. Buongiorno. Le vacanze per i bambini con diabete possono essere anche un'occasione di socializzare, ma di imparare a vivere con il signor diabete. Assolutamente sì. Noi tutti gli anni organizziamo dei momenti appunto di vacanza, che vengono chiamati campi scuola, perché un gruppo di bambini accompagnati da medici, dietisti, psicologi, vengono accompagnati in luoghi o di mare o di montagna, e appunto trascorrendo una settimana insieme, giocando, svagandosi, avendo la possibilità di fare tanta attività sportiva, imparano anche a gestire da soli il diabete in modo da diventare autonomi. È una vacanza proprio importante, è una bellissima esperienza che lei segue da anni. Si ricorda un bambino in particolare, qualcosa che l'ha colpita? Un ricordo di queste? Ne ricordo tanti, nel senso che poi nel gruppo c'è sempre chi ha magari la voglia di essere un po' da esempio agli altri e venendo negli anni successivi ai campi si pone un po' da modello, e sicuramente noi negli anni in cui abbiamo avuto questo esempio di campo scuola abbiamo cresciuto almeno una quindicina di ragazzi che sono poi stati dei grandi esempi e dei buoni esempi per bambini più piccoli che sono venuti ai campi dopo di loro. Dottor Scaramuzza, io la ringrazio per essere stato con noi, la saluto, le auguro un buon campo. Ringrazio voi che ci avete seguito, Alberto Pellai che è intervenuto insieme a tanti amici e tanti esperti. L'appuntamento come sempre torna domani e intanto io vi aspetto qua dopo il GR delle 11. Essere e benessere.